circondato dal PT. Il PT sotto i piedi, grattavi più velocemente che potevi stare dentro. Solo 10 minuti. Sloy. Società, lavorazioni, organiche, inorganiche. È la fabbrica che a Trento ha prodotto il piombo tetraetile. Il piombo tetraetile, l'additivo chimico che serviva a rendere super le nostre benzine. È una storia chimica. Ah, quando si parla di chimica la gente storce il naso, fiuta il pericolo. Però la chimica è tutto, tutto è chimica. L'aria è il prodotto di una reazione chimica che la natura ha fatto miliardi di anni fa. Così come le rocce, la vegetazione, tutto è chimica. Perché noi non ci pensiamo mai, però l'universo è fatto di chimica. E noi siamo fatti con gli stessi elementi di cui è fatto tutto l'universo. E dentro di noi continuamente avvengono reazioni chimiche come digerire, respirare, pensare. C'era tutto scritto nel libretto del piccolo chimico che mi hanno regalato quando ho fatto gli esami di quinta elementare. Ci sono dei regali che ti cambiano la vita. E io e mio cugino Enzo, lo leggevamo come se fosse un topolino. E nel libretto c'era scritto che gli elementi sono 111. Abbiamo provato a contarli. Uomini, donne, plastica, legno, vetro, capelli, occhi, denti, pelle, sedie, luci. Ne abbiamo contati tantissimi, molti più di 111. Allora la mia mamma, che era una professoressa, mi ha detto che all'inizio gli uomini, le donne, non c'era niente. C'erano solo questi 111 elementi primi, che hanno fatto una grande festa e hanno apparecchiato una grande tavola. La tavola degli elementi. E poi hanno fatto un ballo, e dai, che ci dai? Gli elementi ballano in due, in tre, in quattro, fanno il trenino, e quando due o più elementi ballano e rimangono uniti, formano una molecola. E con 111 elementi primi si possono fare balletti sempre nuovi, formando sempre nuove molecole. E nel 1854 uno scienziato tedesco si inventa una nuova molecola, il PbEt4. PbEt4. PbEt4. PbEt4. PbEt4. Il PbEt4. Piombo tetraetile. Tenete a mente questo nome perché è il protagonista della nostra storia e noi lo chiameremo PT. PT. Che cos'è? È un atomo di piombo con attaccati 4 etili. Come si fa a farlo? Si prende del piombo e del sodio, si mettono assieme in un forno finché non diventano una lega. Poi la si sminuzza in piccole scaglie. A parte si prende del cloruro di etile mettendo assieme del cloro, dell'idrogeno e del carbonio. Si mette tutto assieme in un reattore, si lascia andare e quello che si ottiene è il cloruro di sodio e il piombo tetraetile. Il piombo tetraetile è un liquido, è nero, sembra un olio. Il profumo è quello del latte di mandorla, è dolce, è buono. E nel 1854, quando è stato scoperto, non serviva assolutamente a niente. L'utilità di cose ed eventi spesso non è immediatamente manifesta. Ci sono dei regali che ti cambiano la vita. Ci sono delle cose che ti cambiano la vita e tu non te ne accorgi fino a che la tua vita non è già cambiata. Avevo 10 anni. Avevo appena fatto gli esami di quinta elementare. Erano le vacanze più belle della mia vita. Niente compiti e mi avevano regalato il piccolo chimico. Mio cugino Enzo, 9 anni, me lo invidiava da morire. Io ed Enzo d'estate facevamo le vacanze incrociate. Prima venivo io da lui, qui, a Trento, a respirare l'aria buona di montagna. E poi veniva lui da me a respirare l'aria buona di mare, a Mestre. Vedi, Enzo, quelle lucine là? Quella è Porto Marghera. Però a me piaceva molto di più venire qui. Mi piaceva giocare nei campi. Giocavamo alle tigri di Mompracem. Io ero Sandokan e mio cugino era Janez. Si giocava nella casa abbandonata vicino alla Sloi. Era il nostro covo, la nostra isola. Era abbandonata da un sacco di anni, c'erano tutte sterpaglie attorno, ortiche. La nostra giungla. Nell'aria c'era sempre un profumo esotico, un profumo di mandorle. Per noi la Malesia profumava di mandorle. Una volta abbiamo anche catturato una tigre, eh? Vabbè, una pantegana. L'abbiamo gettata a mare, l'abbiamo vista affogare, dibattendosi furiosamente. Il rio degli Armanelli, un torrentello melmoso, era il nostro mar di Giava. Lo zio Nino, il papà di Enzo, lavorava in portineria alla Sloi. E ogni tanto faceva il giro fuori dal muretto per andare a vedere se il rio degli Armanelli scorreva bene oppure se i fanghi l'avevano reso stagnante. Perché nel muretto della Sloi c'era un foro che faceva uscire lo sporco della lavorazione. E quando si intasava, lo zio mandava fuori degli operai a smuovere il fango. Lo zio ci ha visti proprio mentre stavamo guardando la tigre crepare. Io! Via! Ma Enzo, lo zio aveva le mani pesanti come il piombo. La sera torniamo a casa, stanchi, sporchi, impiombati. Bagno, cena e lavata di capo. Non dovete venire a giocare alla Sloi, che è pericoloso. Alla Sloi facciamo il piombo tetraetile, che è velenoso. E allora perché lo fate? A certe domande. Lo zio torna a lavorare alla Sloi questa sera, in portineria, ha il turno di notte, sostituisce un suo collega che a casa è malattia per il mese. Io ed Enzo dormiamo su due letti che si tirano fuori uno da sotto l'altro. La nonna è di là che dorme, la zia è in salotto che fa l'uncinetto, però tiene le porte aperte per controllare che noi dormiamo. Noi non dormiamo. Perché a noi piace avvicinare i letti che hanno delle rotelline sotto e ascoltare la radio di Enzo. Gliene avevano regalata una, piccolina, tutta per lui, anche se ascoltarla dopo cena era vietato. Enzo! Enzo, accendi la radio che c'è il programma con le donne nude! No, Andrea, la radio non si vede. Sì, lo so che non si vede, ma si sente che sono nude! No, meglio di no. Dai, Enzo, accendi! No. Di solito vincevo io, però quando Enzo... Allora dormiamo. Si sveglia il telefono, in piena notte. La zia corre a rispondere, si sente che è preoccupata. E quando suona il telefono di notte è qualcosa di brutto. Noi tendiamo le orecchie. È lo zio che chiama dalla fabbrica, rassicura che lui sta bene. La zia si rilassa, noi ci alziamo. La zia si preoccupa. Prima non vuole fare quello che dice lo zio, poi vuole che lo faccia anche lui. Urlano. Boati. Gli scoppi sono da fuori. Alzo un po' la tapparella, entrano bagliori, esplosioni, fumo. Enzo! Enzo! I fuochi d'artificio, Enzo! Zia, zia, vogliamo andare alla festa, zia! Si è alzata anche la nonna. Ci dice di stare buoni. La zia è di là, che l'ho vista nell'armadio, tira fuori alcuni vestiti, poi ci trascina fuori ancora in pigiama e ci carica in macchina assieme alla nonna e comincia a guidare forte dalla parte opposta alla festa. Ma zia, la festa è di là, zia! Sta bruciando la Sloi. Non dice altro e noi capiamo che è meglio stare zitti. La mattina dopo ci risvegliamo in camera mia. Siamo maestre con 15 giorni d'anticipo sul programma di scambi estivi. Questo voleva dire solo una cosa: spiaggia. La zia e la nonna sono di là, che parlano al telefono con lo zio Nino, fanno le ultime raccomandazioni. Sì, ma vai in ospedale, vai, non si sa mai. Sì, vai in ospedale, sì, sì. Sì, vai in ospedale, sì. Vai in ospedale, sì. Vai in ospedale! Vai in ospedale! Mia mamma ci fa spicciare a fare colazione, ha già preparato tutto. Ombrelloni, asciugamani, i viveri, il secchiello con la paletta e le palline. E quelle con la faccia del ciclista. Autobus fino a Piazzale Roma, vaporetto, si sbarca al Lido. In spiaggia non si può giocare se non sotto lo sguardo di mia madre, che praticamente non si può giocare. Non state sotto il sole, mettetevi la crema solare, mettetevi il cappellino. Non correte, non giocate con le palline che disturbate i vicini. Non fate i castelli di sabbia che intralciate il passaggio. Non rotolatevi sulla sabbia che vi sporcate il costumino col catrame delle petroliere. Io avrei voluto prendere un moscone, andare fino dove le petroliere si pulivano per dirgliene quattro. No, i mosconi li prendono solo i foresti, noi non si può. Fa un caldo, la spiaggia è piena di gente. Il cocco bello, no che sporco, mangiate un panino piuttosto. E non si può fare il bagno se non 3 ore dopo aver mangiato. E non andate al largo, non più di 5 metri dalla riva. In Adriatico, a 5 metri, ma si tocca ancora. Per fortuna che c'era la nonna. Lei non veniva in spiaggia con noi, lei ci aspettava a casa. Però quando si tornava a casa la nonna ci raccontava le storie di nonno Olmo. Era un omone grandissimo, era un supereroe. La nonna ci ha detto che nonno Olmo ha fatto la prima guerra mondiale. Io sapevo tutto sulla prima guerra mondiale, l'avevo portato agli esami di quinta. L'esercito italiano affrontò un'estenuante guerra di trincea dove i soldati si uccidevano con i gas come l'iprite. L'Italia subì numerose perdite. L'Italia subì una dolorosa sconfitta a Caporetto. Poi la nonna ci ha detto che a Caporetto il nonno aveva vinto una medaglia. E non capivamo. L'Italia aveva perso a Caporetto. Sì, l'Italia aveva perso, ma l'Austria no. E il nonno era austriaco, perché Trento era austriaca. Poi il nonno e la nonna si erano conosciuti a Vittorio Veneto il 21 giugno 1918. Il nonno era stato ferito. La nonna gli aveva tolto la pallottola e lui le aveva preso il cuore. Dopo la guerra, il nonno era tornato a casa con una promessa di matrimonio e 2 latte di vernice, una bianca e una rossa, perché a lui il rosso gli piaceva. Il nonno aveva una bella stalla che si era costruito lui, una stalla con 4 stalli per 4 vacche. E aveva la bianchina, la rosina, la nerina. No, ma le vacche non c'erano dopo la guerra. Ma non è la vacca che dà il nome allo stallo, è lo stallo che dà il nome alla vacca. E il nonno ne aveva 4 e aveva la bianchina, la nerina, la nerina e la Vienna. Perché è sempre stato così? Se tu hai 4 vacche, una te la portano via le tasse. E siccome il nonno era un tipo preciso, l'aveva chiamata Vienna. Dopo la guerra, con la vernice bianca, aveva coperto il nome. E con quella rossa, in bella grafia, Roma. Vienna, Roma, Italia, Austria, stessa cosa. Il nonno era un omone grandissimo, uno che andava in giro fischiettando... E nessuno aveva il coraggio di dirgli niente a quell'uomo capace di sollevare di peso una vacca. Il nonno aveva 2 mani forti come il legno. Era capace di fare qualsiasi cosa nei campi. E aveva una grafia semplice e chiara. 1922. Nasce Alessandro, il fratello maggiore di mia madre. Non l'ho mai conosciuto. Alpino in Russia. 1923, abolita la festività del 1° maggio. 1924, nasce Augusto, l'altro fratello di mia madre, non ho mai conosciuto nemmeno lui, partigiano. 1926, sono aboliti gli scioperi. 1928, viene condannato Gramsci. 1929, nasce Vittoria, la zia suora. Questa l'ho conosciuta. 1930, nasce Nino. Lo chiamano Nino perché è piccolino. Questo è il papà di Enzo. E poi avanti così. 1940, nasce Silvia. È la mia mamma. Questo quaderno era di nonno Olmo. Gli serviva per scriverci sopra quante ciliegie, susine, mele aveva raccolto, com'era andata la vendita delle vacche, la nascita dei vitelli, la nascita dei figli, cose così. Non è un diario, sono solo dati senza racconto. Le storie, quelle le conosceva tutte la nonna. La storia più bella, quella del comizio. Le adunate, se ne facevano tante di adunate, erano tutti lì invitati sotto il sole ad applaudire. E il nonno non ci andava mai, aveva i suoi campi da curare. E la nonna invece lavorava nell'orto. Allora un giorno arriva Nino frignando che gli era scappata a Roma e la vacca delle tasse in quegli anni era proprio una brutta bestia. Allora Nino piangeva perché sapeva che suo padre due sberloni giù per le chiappe a farla scappare. Allora va la nonna a dirglielo e nonno era lì che stava potando un albero, salta giù furioso, mi la copo la brutta vacca e parte. E la nonna dietro perché se copa la vacca poi con cosa pagano le tasse. La vacca nel frattempo era andata verso il centro della città. L'avevano vista passare alcuni contadini. Olmo, la tua vacca è andata giù di là. E più in centro alcuni commercianti. È vostra la vacca che è passata. E il nonno a passo spedito e la nonna dietro. E arrivano in piazza Fiera, che è piena di gente. Un gerarca in camicia nera sul palco. È ora di rinverdire i fasti dell'impero. La vacca, intanto, si era infilata fra la gente e lo guardava perplesso. La nostra gloriosa capitale, Roma! In quel momento arriva il nonno. Roma! Bruta vacca porca pelandrona, mite coposa! E la piazza si era fatto assoluto silenzio. Il nonno niente, tira su la vacca, non guarda in faccia nessuno e se ne va. E lo guardano tutti. E il gerarca dal palco. Prendetegli i dati! Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà! Noi vogliamo sempre quella, noi vogliamo la libertà! Achille Starace, segretario del Partito Nazionale Fascista. È lui che inventa il saluto romano. È nato a Gallipoli, ma è molto legato a Trento e per la città di Trento ha grandi progetti di industrializzazione. Un suo caro amico, il suo testimone di nozze a Ravenna, ha messo su una fabbrica rivoluzionaria. È riuscito a produrre il piombo tetraetile, che finora su scala industriale lo producevano soltanto gli americani. Il 9 dicembre 1921, Thomas Midgley, un ingegnere meccanico, a Daytona, nell'Ohio, scopre che il piombo tetraetile è un antidetonante. Aggiunto nella benzina, durante lo scoppio nel pistone, rallenta lo scoppio, aumenta la compressione e migliora la performance del motore. Mi spiego. Un motore che batte in testa fa questo rumore. Tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi. E lo scoppio è così disordinato che il motore perde potenza e spesso si rompe. Aggiungendo il PT alla benzina, il motore fa questo rumore. Lo scoppio è ritmico, musicale, sensuale. Il motore acquista potenza e la vostra auto e il vostro aereo vanno più veloci verso il futuro, verso il futurismo. Una grande velocità di automobile o d'aeroplano consente di abbracciare e di confrontare rapidamente diversi punti lontani della Terra, cioè di fare meccanicamente il lavoro delle analogie. Chi viaggia molto acquista meccanicamente dell'ingegno, avvicina le cose distanti, guardandole sinteticamente ne scopre le simpatie più profonde. Una grande velocità è una riproduzione artificiale dell'intuizione analogica dell'artista. Onnipresenza dell'immaginazione senza fili uguale velocità. Genio creatore uguale velocità. Correre, correre, correre, correre, volare, volare. Immaginate di essere su un aereo, sopra le nuvole. Nessuno vi vede da terra. Immaginate di sorvolare la Francia. Immaginate di sorvolare i Pirenei. Immaginate di essere su un aereo bombardiere Fiat CR-32 dell'Aviazione Legionaria Italiana. Siete sopra la cittadina di Guernica. È giornata di mercato. La piazza è piena di gente. Voi sbucate dalle nuvole, aprite il portellone, sganciate la bomba e ve ne andate. La bomba cade, la bomba... PAM! Aprile 1937. Quasi 2000 morti fra i civili. Volete vincere una guerra? Uccidete i civili e i militari cederanno. La forza militare tedesca, in misura molto minore anche quella italiana, si basavano sull'aviazione. Guernica è il primo esempio di questo nuovo tipo di guerra. Ora capite come mai il PT fosse così fondamentale per gli eserciti di tutto il mondo. In soli 15 anni dalla scoperta di Thomas Midgley, il PT era diventato lo standard internazionale. Prima, per ovviare al problema del battito in testa, si era utilizzato l'alcol etilico. Che cos'è? Beh, qualsiasi zucchero che si decompone diventa alcol, e quindi la grappa, la vodka, il gin, l'alcol. Solo che nel 1919 in America il proibizionismo proibisce tutto l'alcol. E Thomas Midgley prova diversi composti, e quello che funziona meglio è il piombo tetraetile, e lo brevetta. Ma come? Non l'aveva scoperto un tedesco? Sì, ma non serviva a niente, non l'aveva brevettato. E il brevetto si dimostra molto redditizio, molto più dell'alcol etilico, che comunque non è brevettabile. E all'affare partecipano la DuPont, la Standard Oil, la General Motors, e il PT è una specialità americana. O quasi. Perché c'è un giovane chimico a Ravenna che già da assistente universitario ha cominciato a sperimentare con la produzione del PT. All'inizio in via molto sperimentale. Perché fare il PT è un po' come fare la grappa. Si fanno fermentare le vinacce nel tino e poi le si distilla. Solo che il tino non è di legno e si chiama reattore. E questo giovane di Ravenna con il bernoccolo per la chimica si chiama Carlo Luigi Randaccio. All'inizio Randaccio sperimenta con un reattore che si era fatto lui, grande circa come una lavatrice. Un reattore è una via di mezzo fra una lavatrice ed un frullatore. Ecco, diciamo che è come una betoniera, però sigillata. Il piombo, il sodio e il cloruro di etile vengono messi dentro, vengono lasciati andare. Il reattore deve essere in grado di sopportare il calore che si genera, deve essere a tenuta stagna perché il piombo vaporizza molto velocemente, e il miscuglio che si ottiene viene poi distillato, cioè evapora e poi condensa, come la grappa. Insomma, non è così facile, ma nemmeno troppo difficile. E a partire dal 1935 lo stabilimento di Ravenna fornisce all'aeronautica italiana l'additivo per la benzina Avio. Nel 1938 l'aeronautica italiana chiede alla SLOI di aumentare la produzione per soddisfare il fabbisogno di guerra italiano e anche quello tedesco, perché la SLOI era l'unica fabbrica in tutto l'asse di ferro che producesse il piombo tetraetile. Chiedono anche che la SLOI venga trasferita in una zona un po' più protetta. Bisogna trovare il posto giusto. E chi se ne occupa? Oh, Achille Starace! Dove costruire una fabbrica così strategica? A Trento, a pochi chilometri dalla Germania, lontano dalla Francia e dagli alleati, servito da una ferrovia e da un aeroporto. A Trento, vicino alla ferrovia, vicino all'aeroporto, quindi a Campo Trentino. Era l'orto, era il giardino, era il paradiso di Trento. C'erano campi di grano turco, vigneti, terreno fertile bagnato da due pescosi affluenti dell'Adige. E poi d'inverno la neve copriva i campi e in primavera nevicavano i petali. Sembra quasi una di quelle pubblicità turistiche. Roba da catalogo d'agenzia viaggi. Il Trentino, un tuffo nella natura. Oh, però era proprio così. E ad Achille gli piaceva. Gli piaceva fare lunghe cavalcate per quei campi. E proprio nel campo grande, quello di mio nonno, quello con i meli vecchi, ferma il cavallo e dice, qui. Potendo scegliere, aveva scelto proprio il campo di mio nonno. Roma, brutta vacca. 5 ettari di terreno confiscati a mio nonno e ai contadini lì attorno per 2,5 lire al metro quadro. Nel 1938 con 2,5 lire ci compravi 1 chilo di pane. Vacca porca, porca vacca. Nel 1940 la SLOI comincia a produrre PT a Trento con maestranze locali e tecnici provenienti da Ravenna. Mio nonno continua a coltivare i campi che gli sono rimasti. Però i fumi dalla fabbrica... buoni, sanno di mandorla. Bruciano le ciliegie e uccidono i bachi da seta del nonno e degli altri contadini. Vacca porca, porca vacca! Il nonno convince tutti a sporgere denuncia. Nel 1941 il pretore condanna la SLOI a risarcire i contadini. Processo d'appello. E nel 1942 la sentenza è di assoluzione per la SLOI e ai contadini tocca anche pagare le spese. Porca vacca, porco di... Sarebbe stato un grande bestemmiatore se non avesse avuto la nonna che lo teneva d'occhio. Sfiora l'onde nere nella fitta oscurità, dalle torrette fiere un sguardo sempre sta, agili ed invisibili, partono i sommergibili, fuori e motori, saltatori, corrono l'immensità. 1942. La SLOI è una fabbrica strategica. I suoi dipendenti, i suoi dirigenti sono esentati anche dal servizio militare. 8 settembre 1943. Il nonno è uno dei primi ad organizzarsi. E una volta alla settimana lui riempie il suo zaino con tutti i viveri che può portare, parte all'alba e sale in montagna dai partigiani di Gian Antonio Manci e da suo figlio Augusto. Pericoloso? Eh sì, se ti vede un tedesco, se no, no. E nonno le conosceva a memoria le sue montagne e saliva su per quelle vette come uno stambecco. La nonna invece lo aspettava a casa. Era preoccupata che il nonno le portasse brutte notizie di Augusto. E tutte le volte che la nonna raccontava questa storia, le veniva ancora da piangere, per non essersi almeno salutati. Le ultime parole che il nonno le ha detto sono state: oggi l'aria dalla SLOI sapeva di mandorle più del solito. Ma con tutte le belle cose che il nonno sapeva dire, per l'ultima volta su questa terra proprio di mandorle doveva parlare. Alcuni partigiani dicono di averlo visto saltare giù da una cresta con le braccia aperte, come se fosse convinto di saper volare. La nonna non ci ha mai creduto. Piuttosto una vertigine, un giramento, il peso dello zaino, qualcuno, qualcosa. Io me lo sono sempre immaginato così, nonna, a braccia aperte, un istante prima di spiccare il volo. Thank you. 25 aprile 1945. L'Italia è distrutta, anche Trento è distrutta, ha subito 80 bombardamenti. Anche la Sloy è stata danneggiata nel 1943 e ha dovuto chiudere la produzione. 25 aprile 1945, una sola cosa è certa, ne sono convinti tutti, mai più guerra. E una fabbrica militare, sorretta da un regime che ormai è caduto, a rigor di logica dovrebbe chiudere, definitivamente. Riapre, riprende a produrre, ma per chi? Non c'erano automobili in giro, la gente era povera, l'esercito non c'era più, l'aeronautica era stata distrutta. Randaccio di Bernoccoli ne va due. Uno per la chimica e l'altro per il business. Nel 1945 Randaccio, o chi per lui, ha un'intuizione geniale. L'Italia, l'Europa, il mondo sono all'alba di una nuova crescita. Una crescita che il PT può aiutare. Una crescita che il PT può supportare. Una crescita da cui Randaccio, o chi per lui, può guadagnare. E nel 1947 la Sloy viene sistemata, ampliata, potenziata e riaperta. 1948. La Repubblica Italiana decide che lo zio Nino debba essere riformato. E per il suo 18° compleanno la nonna gli regala il quaderno di nonno Olmo. E lo zio lo usa esattamente come faceva il nonno. E non è un diario, lui gli incolla sopra articoli di giornale, cartoline, appunti. E il primo articolo è del Popolo Trentino, 3 ottobre 1948, e dice: in questi giorni miliardi e miliardi sono stati stanziati per le industrie del meridione. Durante il passato ventennio miliardi e miliardi sono stati stanziati per quelle del settentrione, sempre con esclusione di questa nostra disgraziata provincia, che si trova così nella statistica dell'industrializzazione all'ultimo posto fra tutte quelle d'Italia. Lo zio Nino non voleva lavorare nei campi, lui voleva andare a lavorare in fabbrica. Ma che bello andare in fabbrica, perché il motore rompa e corre insieme a te. Una tuta nuova, una buona paga, il sogno di una vita già qui. Senti le sirene, il mondo ti appartiene, vieni anche tu. Trento di fabbriche ce n'erano, mica come Milano, Torino, però ce n'erano. C'era la Michelin, la Carbochimica, la Caproni, la Ferriera, l'Italcementi, c'era la Prada, sì, non quella che fa borsette, quella che fa bitume. Però la paga alla Sloy con le sue quote di indennizzo sindacale, gli extra fuori busta, era il doppio di quella delle altre aziende, con turni di solo 6 ore. E ogni operaio addetto alla produzione aveva diritto a 1740 calorie. Primo, secondo con carne, con tonno, frutta, dessert e caffè. Un pasto così mica lo facevano tutti. E poi la Sloy dava 1 litro di latte tutti i giorni per disintossicarti. E poi c'era la doccia, il medico di fabbrica, e poi c'era Randaccio. Era un genio. Sì, era un po' severo, però giusto, e i suoi operai gli volevano bene. E lo zio Nino voleva tanto lavorare alla Sloy. Però alla Sloy c'entravano soltanto i raccomandati. E comunque gente forte, le indicazioni erano molto chiare. Assumere solo gente sana e intelligente, sono da escludere gli intossicati, quelli affetti da malattie renali, gli individui dediti all'alcolismo o con il sistema nervoso compromesso. Vanno anche considerate le attitudini mentali, scartando sia i paurosi che i bravacci che non valutano i pericoli reali. Ah, lo zio Nino non era così forte, però era astemio, era sano, era posato, era preciso. Gli mancava solo la raccomandazione. Gliela procura dal convento la zia Vittoria. Una suora in famiglia serve sempre. E così, il 26 gennaio del 1956, lo zio Nino entra a lavorare alla Sloy. E il 27 febbraio dello stesso anno, lo zio Nino consegna la sua prima busta paga alla nonna. E la nonna gli dà alcuni spiccioli per andare al bar. Lo zio Nino era astemio, Però il giovedì sera alle ore 21 al bar ci andavano tutti. Erano tutti lì in piedi con il loro bicchiere a guardare L'Ascia o Raddoppia con Mike Bongiorno e Eddie Campagnoli. Perché nel 1956 in Italia la televisione ce l'avevano soltanto i ricchi ricchi o i bar ricchi. E lo zio Nino portava anche la sua sorellina, la mia mamma. La viziava. Aveva anche insistito che continuasse a studiare. Quante belle cose si potevano fare con lo stipendio della SLOI. La SLOI è una fabbrica bellissima. La SLOI è una fabbrica sicurissima. In sala mensa ci sono i diplomi di benemerenza per l'attività svolta contro gli infortuni e le malattie professionali. Però è dura. Sei ore al caldo, all'umido, a trasportare pesi con il naso tappato, un tubo in bocca e l'attenzione costantemente allerta. Tutto quello che ti circonda è enormemente pericoloso. Dai forni, grandi come carri armati, si riversa la lega incandescente. Dai reattori, che sembrano dei sommergibili, escono zaffate di fumo tossico. Dai condensatori, cola fango velenoso. È il liquido che esce dai distillatori. È letale al solo contatto con la pelle. Sei ore di fatica, di tensione, di pericolo, con solo 30 minuti per mangiare alla mensa. Alla fine di quelle sei ore, sei contento che siano solo sei. Alla fine di quelle sei ore ti sembra di averne lavorate 16. E ogni due settimane il commendatore Randaccio fa visita alla sua fabbrica. Per il suo arrivo i suoi operai tirano a lustro la sua fabbrica. Randaccio è prodigo di consigli, preciso negli elogi, giusto nei rimproveri e ogni tanto dà anche qualche gratifica extra, perché i lavori ben fatti vanno ricompensati subito. Quella volta che era arrivato con la faccia cupa, lo zio Nino si era accorto che c'era qualcosa di strano. Discorso in sala mensa. Qui le cose non vanno bene. I costi salgono, la produzione ferma, di questo passo dovremmo chiudere per fallimento, a meno che non si facciano turni di 8 ore. Detto, fatto. 2 ore di turno in più, ma la paga invariata. Nessuno ha avuto il coraggio di protestare. Sì, qualcuno si era chiesto cosa volesse dire restare competitivi quando la SLOI era una delle pochissime fabbriche al mondo che facessero il piombo tetraetile. Però se lo era chiesto a bassa voce. Lamentarsi comunque non serviva a niente. E gli operai si sentivano abbastanza ricchi. E anche lo zio Nino si sentiva abbastanza ricco. Perché lui, il 27 di ogni mese, continuava a dare la sua busta alla nonna. Però alla SLOI c'erano gli extra fuori busta e le gratifiche per chi si offriva di fare lavori particolari. E con gli extra fuori busta, nel luglio del 1957, lo zio Nino può comprarsi... Ma che bello dare il motore a che è! Il motore romba e corre insieme a te! La Vespa! Se corriamo insieme, il mondo ci appartiene, vieni anche tu! Motoretta, corre con me. Lo zio Nino se la compra rossa perché a lui il rosso piace. Muove proprio te. Suona dalla radio che fa you. Forza giù dal letto, vieni anche tu. Ma che bello andare in motoretta che è. E con la Vespa rossa lo zio Nino può finalmente andare sotto le finestre della Pia. Perché nel frattempo lo zio si era anche innamorato. E 7 anni dopo, quando finalmente ha il coraggio di dichiararsi, la Pia diventa la zia Pia. E così la zia Pia e lo zio Nino avevano messo su anche un bel appartamento in un condominio. E lo zio non faceva mancare niente a sua moglie, aveva fatto le cambiali per comprare tutto nuovo, i mobili, la lavatrice, il frigorifero, persino la televisione. Poi 2 bagni, un lusso incredibile, di cui uno con la vasca da bagno. E la vasca da bagno aveva tutto intorno un alone nero. Era il segno che il piombo aveva lasciato negli anni. Tutti i giorni lo zio, quando tornava a casa dal suo turno, si spogliava. E poi gettava i suoi vestiti nella vasca da bagno. Non la tuta sporca da lavoro, no? Quella era della SLOI, se la lavava lei, la dava soltanto in dotazione agli operai. No, i vestiti che si era messo puliti per andare a lavorare. Arrivato in fabbrica se li toglieva, li metteva nell'apposito armadietto della fabbrica per 8 ore. Finito il turno, toglieva la sua tuta, la metteva nell'altro apposito armadietto della fabbrica. Poi si faceva la doccia col sapone allo zolfo che gli dava la Sloy. Si rivestiva e tornava a casa. Arrivato a casa si spogliava e gettava i vestiti nella vasca da bagno. Perché la zia diceva che sapevano di Sloy. Non voleva avere quell'odore in casa. Li lavava con la candeggina. E in effetti in casa c'era odore di mandorle marce. Perché il PT, quando è fresco, sa di mandorle buone. Però si ossida molto velocemente e poi sa di mandorle marce, di aglio e di cipolle. E in casa c'era odore di mandorle marce, di aglio e di cipolle. E la zia avrebbe tanto voluto fare il bagno anche allo zio con la candeggina, ma non poteva. Però lo teneva d'occhio. Come ti chiami? Nino. Come si chiamava tuo padre? Olmo. E le tue sorelle? Silvia. Vittoria. E tu quanti anni hai? Domande così, per sapere se il piombo che gli puzzava dalla pelle gli aveva dato alla testa. Piombo tetraetile è etilico. Non è un alcol come la grappa, la vodka e il gin, però è etilico ed ha gli stessi effetti di una sbronza, solo che sono molto più persistenti. Il piombo invece è un metallo che conduce alla pazzia, solo che è difficile assumere un metallo. Il PT è un liquido che evapora, può essere respirato, può essere assorbito dalla pelle. Ora, mettendo assieme gli effetti del piombo con quelli dell'etile, capita i due veleni si potenzino l'un l'altro. E fra gli operai c'era stato chi aveva cominciato a comportarsi in maniera violenta con la moglie, con i figli. Qualcuno aveva anche violentato i propri figli. Qualcuno aveva minacciato di ucciderli. Qualcuno si era dato 99 colpi di rasoio. Qualcuno si era gettato da una finestra. E qualcuno si era gettato da un ponte. Lo sapevano tutti, operai e capi. Si sapeva già durante la guerra. L'unico rimedio era quello di limitare al massimo l'esposizione, tenendo monitorato il grado di piomburia, cioè la concentrazione di piombo nel sangue o nelle urine. E quando l'operaio era impiombato oltre i limiti accettabili, adibire l'operaio ad un reparto lontano dai reparti di produzione. Erano impiombati tutti. Anche il direttore, anche il cuoco della mensa, persino miau il gatto del cuoco della mensa, tutti, anche Randaccio era impiombato. Una volta era addirittura svenuto durante una visita ai reparti di produzione. O meglio, non tutti. Gli uffici amministrativi della Sloy erano a Bologna, Sochmel, e per i burocrati di Bologna il PT era soltanto un prodotto, produrre, produrre, produrre, vendere, vendere, vendere, comprare, comprare, comprare. C'è il boom economico, jackpot. E anche la Sloy deve aumentare la produzione. A Bologna la pensano così. E la pensa così anche Miriana Pirazzoli, una donna in minigonna, una donna in carriera. Si diceva che fosse anche l'amante di Randaccio, appunto una donna in carriera. Era la responsabile del personale, ma praticamente la Sloy la mandava avanti lei. E a Trento gli operai l'avevano affettuosamente soprannominata la figa de fer. E così nel dicembre del 1964, guardando le paghe, si accorge che ci sono almeno 33 operai sempre a casa in malattia. Ormai sono impiombati in maniera irreversibile. La Iron Lady fa un bel regalo di Natale. Li licenzia. La, la, la, la, la. Insolano tutti. E l'11 dicembre a Trento piove. Un corteo parte dalla Sloia, arriva fino alle vie del centro e si sente fischiare. E chi non sa fischiare canta Bandiera Rossa. E sui cartelli la scritta: in ogni litro di benzina che voi usate c'è un po' della nostra salute. E quel voi ha la V maiuscola. Il giorno dopo, per la prima volta, articoli di giornale. 12 dicembre, Alto Adige, la fabbrica ci avvelena, la Sloy guadagna milioni, gli operai muoiono intossicati per 250 lire all'ora. 18 dicembre, Sloy, rifiutate le tredicesime. 24 dicembre, testa a testa. 27 dicembre, la notte di Natale, Natale stesso, ieri, è proseguito il picchettaggio. 28 dicembre, un nuovo caso di intossicazione, è uno dei 33 licenziati. 30 dicembre, una commissione cappeggiata dai sindacalisti... E non si capisce cosa facciano i sindacalisti. 5 gennaio. Gli scioperanti della Sloy sono stati ricevuti ieri pomeriggio dal presidente del Consiglio Aldo Moro. E non si capisce cosa faccia Aldo Moro. L'audacia degli operai ha dato i suoi effetti positivi perché i politici locali incontrano il direttore e l'amministratore della Sloy. 9 gennaio, dell'incontro non si sa molto, ma è certo che la società Sloy non ha aderito ad alcuna richiesta della controparte. 16 gennaio, alla Sloy è ripreso il lavoro, anche se i licenziamenti non sono stati revocati. Questi articoli li ha raccolti lo zio, anche se lo zio è stato uno dei pochissimi operai che non hanno partecipato allo sciopero. C'è anche un suo appunto lì dentro, dice... Mi hanno chiamato Crumiro e mi dispiace di esserlo, ma le cambiali dei mobili sono ancora da pagare. Pur con il personale estremamente ridotto, la Sloy ha mandato avanti la produzione. Però così facendo, i pochissimi Crumiri hanno dovuto fare i doppi, tripli turni per mandare avanti la produzione. E i loro corpi non hanno avuto il tempo di rilasciare il PT che veniva assorbito. Una slot machine funziona mediante l'inserimento nell'apposita fessura di una monetina. Azionando una leva, si imprime una rotazione dei tamburi su cui sono disegnate diverse figure, la cui combinazione comporta una vincita consistente in un certo numero di monetine che vengono scaricate da un foro posto al di sotto dell'apparecchio. Il corpo umano assorbe il PT soprattutto attraverso le vie respiratorie, ma anche per via cutanea. Il prodotto è solubile nei grassi e si accumula nei tessuti ricchi di lipidi, come il fegato, il sistema nervoso, il cervello. L'intossicazione dà da prima i sintomi di una sana ubriacatura. Poi appare il mal di testa, fortissimo, che si associa a perdita di memoria, insonnia, euforia, depressione, pianto. Io l'ho visto lo zio Nino che piangeva, come un bambino. E fa una certa impressione vedere un uomo che piange. Poi appaiono i disturbi all'apparato digerente, la nausea e il vomito. L'operaio intossicato si sveglia la mattina con una sensazione di palla in bocca, di ragnatela sul palato. Poi appare l'anoressia. L'operaio arriva a perdere fino a 30 kg. Infine, nei casi più gravi, c'è l'abbassamento progressivo della pressione arteriosa, la bradicardia e l'ipotermia. Cioè il corpo diventa sempre più freddo e non servono niente le coperte, i vestiti, finché non sopraggiunge la morte. Quasi mai i rulli si allineano sulla figura più rara. In tal caso il giocatore vince tutte le monetine poste in gioco dai giocatori che l'hanno preceduto. Jackpot. Quando un operaio si ammalava, veniva mandato all'Istituto per le Malattie Professionali a Padova. Nei casi più gravi, invece, veniva spedito direttamente al manicomio di Pergine, in Valsugana. Molti stavano male subito dopo aver pulito le cisterne con il piombo. I silos che contenevano i piti erano grandi e uno ci entrava con una scala in corda. E più entravi e più avevi paura. Si entrava come un palombaro in immersione con il tubo, cioè con una conduttura per l'aria che usciva fuori dal silos. Non si potevano usare le luci perché il PT è facilmente infiammabile. L'aria era satura di PT, si sarebbe rischiata un'esplosione. Al buio, circondato dal PT, il PT sotto i piedi, grattavi più velocemente che potevi. Potevi stare dentro solo 10 minuti. Avevano portato a casa lo zio con la macchina della Sloy. E a casa non si era ripreso. Non stava bene. Non dormiva. Le poche volte che si appisolava faceva degli incubi orribili. Poi era venuto anche il medico di fabbrica a vederlo un paio di volte. E aveva ordinato che lo portassero subito a Padova. Sempre con la macchina della Sloy. Uno dei tanti benefits che la fabbrica dava ai suoi operai. E a Padova, in camerata, lo zio aveva incontrato altri 2 suoi colleghi della Sloy. E ce n'erano stati molti altri. E anche gli infermieri scherzavano e dicevano: il tuo collega che era lì sul tuo letto il mese scorso, su quel letto c'è morto. E fra colleghi scherzavano. E lo zio era allegro, era quasi euforico. Aveva cominciato ad appassionarsi di aeroplani. Lui sapeva tutto di Lindbergh, dei Boeing, dei Comet. Passava le sue giornate guardando fuori dalla finestra. Era orgoglioso che quegli aerei che vedeva passare volassero grazie al PT che faceva lui. Gli aerei volano e i loro motori fanno piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti piti. Proprio nell'istante in cui stava per saltare dalla finestra. I medici di Padova non sapevano cosa fare con uno che al meglio delle sue condizioni era convinto di essere un aereo. E così l'avevano spedito al manicomio di Pergine. E gli psichiatri di Pergine, non essendo ancora stati inventati il Valium e il Prozac, usavano curare i matti con metodi molto scientifici come l'elettroshock, la piretoterapia, il coma insulinico. Ora, io non so quali di questi metodi abbiano mai fatto bene ai matti, però lo zio era soltanto impiombato, non gli hanno fatto bene per niente. E così di giorno era ancora depresso, di notte faceva incubi orribili, però se non ti uccide il PT, dopo un po' il tuo corpo lo espelle. E lo zio non aveva riportato danni irreparabili troppo gravi. E così dopo 4 mesi la zia se lo può andare a riprendere. C'erano alcune mogli che non andavano più a prendere i loro mariti matti. Le statistiche INAIL parlano chiaro. Dal 1960 al 1971 ci sono stati 1.108 casi di infortuni per malattie professionali dovute al PT. E tutto questo in una fabbrica che aveva 150, massimo 200 operai alla volta. Eppure il comune, l'ispettorato del lavoro, la magistratura non hanno mai fatto niente. Nessuno ha mai fermato la SLOI. E la SLOI è andata avanti! Sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la. Quando un sottoperaio si ammalava, la SLOI ne assumeva un altro di nuovo. Sempre più spesso chi entrava aveva paura di quello che vedeva e cercava di uscire. Si racconta che alcuni operai fossero scappati durante il loro primo giorno di lavoro. C'era così disperata bisogno di manodopera che i capi della SLOI invitavano tutti quelli che volevano farsi assumere a presentarsi la mattina presto fuori davanti ai cancelli. Li metteva lì in fila, gli faceva togliere le magliette, a torso nudo li esaminava e i più robusti venivano fatti entrare. Lavorava sempre con gente nuova, mai vista prima. Negli anni 60 alla SLOI c'erano 14 reattori allineati uno di fianco all'altro. I reattori venivano caricati con la lega a piombo sodio e con l'acido cloridrico. E le cariche venivano fatte a mano, e questo era il momento più pericoloso. E da una carica ogni 6 ore si era passati a 5 cariche per turno, 6 cariche per turno, 7 cariche per turno. Non c'era il tempo di lasciare riposare i reattori, tantomeno di farne la manutenzione. Si aggiustavano solo quando si rompevano. Però a volte non si rompevano, semplicemente puff, sbuffavano. Un reattore è come una betoniera sigillata. Diciamo che è come un'enorme caffettiera moka. È come nelle caffettiere: se la pressione è troppo alta e la valvola è rotta, oppure non c'è la valvola, la caffettiera esplode spruzzando caffè per tutta la stanza. Nei reattori la valvola era un tappo di metallo e quando questo saltava tutto il contenuto veniva sparato su per decine e decine di metri come un geyser. E succedeva una volta alla settimana, ma molto più spesso due o tre volte alla settimana. E poi il vento se la portava via. Dietro la SLOI c'erano la centrale del latte e il macello comunale. Da misurazioni fatte si era riscontrato che sia il latte che la carne avevano una certa quantità di PT. Il PT era quindi entrato nella catena alimentare. Eppure la magistratura, l'ispettorato del lavoro, il medico provinciale, il sindaco non hanno mai fatto niente. E poi quando si parla di catastrofe tutti parlano di mancata prevenzione. Sì, però che cos'è una catastrofe? È forse un operaio ammattito? Oppure un operaio intossicato che minaccia di uccidere il proprio figlio? Oppure un operaio che viene investito da una lega incandescente e rimane per sempre storpio? O un operaio che muore sul colpo? No, una sola vittima non è una catastrofe. E allora 1.108 casi di infortuni in 10 anni? Sono poco più di 2 alla settimana, non fa notizia. E poi ci vuole un evento eccezionale perché la si possa chiamare catastrofe. Dal 1 novembre 1966, su tutta l'Italia, piove, piove, piove, non smette di piovere. Sono 2 giorni che piove, 3 giorni che piove, 4 giorni che piove. Si alzano i livelli di tutti i fiumi, il Po, l'Arno, l'Adige. A Trento sono tutti sugli argini perché l'Adige cresce, cresce, cresce, non smette di crescere. Accarezza i ponti, li lambisce con le onde. A Firenze sono convinti che l'Arno si porterà via Ponte Vecchio. Venezia è sotto l'acqua, il Triveneto è sotto l'acqua, l'Emilia-Romagna è sotto l'acqua, l'Adige è a 6,5 metri. A Firenze l'Arno allaga gli Uffizi e la Biblioteca Nazionale e Firenze è sotto 3 metri di acqua. A Trento l'Adige rompe gli argini a Campo Trentino, scende lungo le strade e Trento è sotto 2 metri di acqua. L'acqua invade le strade, sradica gli alberi, travolge le automobili, sfonda le porte, filtra dalle finestre. Acqua, acqua dovunque. Acqua, ma non solo acqua. Acqua mista a fango, detriti, tronchi d'albero, cadaveri di animali, gasolio, nafta, benzina. E dovunque l'acqua passi, lascia un segno viscido. un segno nero. Imbarcazioni portano in salvo chi è stato isolato dall'acqua. La corrente elettrica è interrotta. La città è al buio. Si sentono degli scoppi fortissimi. Vengono da Campo Trentino. Vengono dai depositi del sodio della Sloy. Sodio che a contatto con l'acqua brucia rapidamente. Sodio arrivato dall'Unione Sovietica in bidoni d'alluminio sottilissimi. L'acqua entra nei depositi. Bagna i bidoni, alcuni sono rotti. Questi saltano per aria per ricadere in acqua con tonfi che paiono delle cannonate. Saltano in aria centinaia, i vetri sono tutti rotti. Come asteroidi al contrario lasciano scie azzurrognole. Come enormi fuochi d'artificio. Come missili impazziti colpiscono le case tutto intorno. E poi l'acqua è dovunque e soffoca l'incendio. Quando l'acqua defluisce, sembra che la Sloy sia stata devastata da un bombardamento. Tocca ricostruire anche la Sloy. E gli operai con gli stivaloni si danno da fare. E padron Randazzo, una volta tanto, invece che nella solita sala mensa, offre a tutti una cena all'Hotel Trento. E ringrazia commosso e dice: tutti in città, in provincia, volevano la nostra fine, ma voi l'avete salvata. E piange. I danni sono ingenti, 500 milioni di lire. Si offre di pagarli il comune, a patto che la Sloy traslochi un po' più in là, perché le esplosioni, forti come dei bombardamenti, hanno instillato nei cittadini la paura che la Sloy sia un vicino troppo pericoloso, troppo vicino. Randazzo non ne vuole sapere di spostarsi e il braccio di ferro dura 2 anni. E alla fine l'ha vinta lui. E gli danno 1 miliardo per la ricostruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti. Jackpot. Randazzo chiude tutto per 2 mesi, lascia a casa gli operai naturalmente senza paga, fa dare una bella mano di bianco sui vecchi impianti e avanti. Però gli operai stanno cambiando, stanno profondamente cambiando. Ormai non si fidano più di nessuno. L'unico di cui si fidano ancora è il medico di fabbrica, il dottor. E molto spesso anche le mogli accompagnano i loro mariti alla visita medica. La zia Pia non ne mancava una. Diglielo, dighe tutto al dottor. E non è così facile dire tutto al dottore. Dighe tutto al dottor, diglielo. Alcune cose sono private. Dighe tutto. Il dottor Danieli, sapeva bene dove andavano a parare le reticenze dello zio e le insistenze della zia. Perché lo zio Nino non era mica il primo, oppure l'unico, e sicuramente non l'ultimo operaio della Sloy ad avere quel problema. Perché il PT rende impotenti. Intanto all'ospedale di Mestre nasco io. È il 1968, anno di proteste, manifestazioni e scioperi. E anche gli operai della Sloy scioperano su decisione della CGIL. È il 7 luglio 1968, è il terzo sciopero in 2 settimane e adesso scioperano tutti, anche lo zio, perché ormai ha finito di pagare le sue cambiali. Sciopera anche se è stato promosso, perché dopo 12 anni passati ai reattori, adesso lo zio lavora in portineria. È lontano dai reattori, lo zio sta meglio, rifiorisce, mette su anche qualche chiletto. Sta benissimo, tutto tranne quel problema. E gli operai protestano e vogliono un miglioramento delle condizioni di lavoro, una riduzione dell'orario a parità di retribuzione. E urlano slogan come cloro al clero, diossina all'ADC, piombo tetraetile all'MSI, cloro al clero, diossina all'ADC, piombo tetraetile all'MSI. E si alza la protesta, cloro al clero, diossina all'ADC, si alza l'orgoglio, piombo tetraetile all'MSI. E allo zionino si alza anche il desiderio. Pia! 9 mesi dopo nasce anche mio cugino Enzo, che praticamente è il figlio della CGIL. Come spesso accade al merito paziente, l'importanza degli scioperi della CGIL nel concepimento di mio cugino Enzo non viene riconosciuta. Il benemerito della situazione è il dottor. E il dottore si era schermito, aveva detto che lui avrebbe voluto fare molto di più per aiutare gli operai. Ma che non gli lasciavano fare niente. Nove mesi dopo, il dottor Danieli, medico di fabbrica alla SLOI da ben 8 anni, dà le dimissioni con decorrenza immediata. Non dà motivazioni, non dà saluti. Alla SLOI era cambiato il direttore. Il vecchio Pedinelli, che era lì da sempre praticamente, era stato sostituito con un ingegnere giovane e rampante. Uno che metteva al primo posto nella sua scala dei valori produrre, produrre, produrre. Questo parlandone da vivo. Ma siccome l'ingegnere Emilio Bertotti è morto, giovane, ha preso il volo, non sta bene dirne male. Diremo soltanto che fra lui e il dottor Danieli c'era una radicale divergenza di vedute e così il dottor Danieli ha dovuto dare le dimissioni. Lo sostituisce un dottorino giovane, giovane e foresto. Il dottor Giuseppe De Venuto era molto foresto, era di Bari. Lo scelgono apposta, presumono che se ne starà buono. Presumono che non romperà le scatole, presumono male, perché viene assunto nel febbraio del 1970, 9 mesi dopo. Dopo 9 mesi di attività come medico di fabbrica presso la vostra infermeria, sono costretto ad interrompere il rapporto professionale. Se un sanitario è messo nella condizione di doversi limitare a constatare i casi di malattia conclamati, senza poter svolgere un'azione preventiva, cessa nello stesso tempo l'utilità e quindi la ragione della sua stessa presenza in fabbrica. Dottor De Venuto Giuseppe. Il dottorino giovane giovane foresto sa come va il mondo. Fa un po' di fotocopie della sua lettera di dimissioni, e non solo di quella, e porta tutto negli uffici giusti. Scandalo! Scoppia uno scandalo e finalmente si muovono tutti, comune, regione, provincia, ispettorato del lavoro e anche la magistratura. Il giudice istruttore ordina subito una perizia tecnica, 244 pagine che si possono riassumere in 4 parole. La fabbrica va chiusa. Il giudice istruttore scrive a tutti gli interessati dicendo che la fabbrica andrebbe chiusa. Gli interessati perdono tempo perché non sanno chi si deve prendere la responsabilità di chiudere la fabbrica e di lasciare a casa gli operai. Gli operai insorgono, non vogliono restare senza lavoro. Il procuratore, visto che non ha fatto ancora nessuno, ordina la chiusura della SLOI. Randaccio minaccia di chiudere definitivamente e di lasciare a casa gli operai. Gli operai occupano la fabbrica. Arriva Trento Miriana Pirazzoli, guida gli operai all'assedio della casa del procuratore. Intanto gli abitanti attorno alla SLOI protestano, non vogliono più essere avvelenati dalla fabbrica e la fabbrica dichiara di aver fatto tutte le modifiche necessarie. Però per sapere se sono sufficienti bisogna riprendere le lavorazioni. E così la fabbrica può riaprire per un periodo di prova che non finirà mai. Intanto la giustizia fa il suo corso e l'ordine di cattura per Randaccio arriva nel 1973 e vengono indagati anche Pedinelli e Bertotti. Il verdetto, la sentenza, nel 1975. Randaccio viene condannato a 5 anni di reclusione. Bertotti a 2 con la condizionale. Pedinelli viene assolto per non avere commesso il fatto. Si va in appello e nel 1978 Randaccio viene di nuovo condannato. Però ormai è troppo tardi. 14 luglio 1978, verso le 9 di sera, quando io e mio cugino Enzo stiamo già dormendo perché lui ha troppa paura per ascoltare la radio, viene giù uno di quei belli acquazzoni estivi e piove. Il tetto del deposito del sodio della SLOI è danneggiato. I vetri sono rotti, nessuno li ha sistemati. L'acqua entra nel deposito, bagna i bidoni, bagna proprio un bidone rotto che si accende, esplode, scalda quello vicino, lo fonde e uno dopo l'altro i bidoni si accendono come dei cerini ed esplodono. Gli operai dei turni di notte escono per vedere quello che sta succedendo. Lo zionino è in portineria. Chiama prima i vigili, poi chiama a casa. Porta subito i bambini e la nonna da mia sorella. Perché sta bruciando la Sloy. No, il fuoco non arriva fino lì, ma se brucia il PT... No, non posso venire. Perché sono di turno. Perché voglio che anche mio figlio faccia l'università, come mia sorella. Porta subito mio figlio da lei. E riattacca. E corro ad aiutare. Ma non c'è niente da fare. Fiamme alte più di 20 metri. Fumo denso e scuro. Soda caustica polverizzata. Non si riesce a respirare. Lingue di sodio fuso che schizzano dalle pareti. I vigili vengono richiamati. Arrivano mezz'ora dopo. E non sanno cosa fare. L'acqua non fa effetto e la polvere secca non è sufficiente. Una nube scura ormai copre tutta la città. È soda caustica polverizzata, irrita le mucose, ma non è velenosa. E chi può scappa, prova a scappare, perché se il fuoco raggiunge il deposito del PT, il PT vaporizza immediatamente. In un attimo si formerebbe una nube mortale. Il PT è 30 volte più velenoso dell'iprite. E nei depositi c'è abbastanza PT per uccidere tutta Trento. E chissà quanti paesi più a nord e chissà quanti paesi più a sud. Altro che la diossina di Seveso. Altro che Bhopal. Altro che Chernobyl. Semafori, conta la coda, forse l'ingorgo, speriamo che non si fermi. Conta i chilometri, conta i paesi, Rovereto, Verona, Vicenza, Mestre, conta. E contando sente di avvicinarsi anche lui alla salvezza. E chi non può scappare resta a guardare. Il sodio che brucia è bellissimo, è una palla di fuoco a turrogno. Fuoco è una reazione che può avvenire solo grazie all'ossigeno, e in mancanza di ossigeno ogni fuoco si spegne. E l'intuizione geniale viene a Nicola Salvati, il comandante dei vigili del fuoco. L'unico modo per arginare l'incendio è di costruirgli una cappa di cemento attorno. E a Trento c'è lì il cemento, e Salvati fa prendere alcuni autotreni e fa gettare con le pompe 40 tonnellate di cemento sfuso sul sodio in fiamme. Il giorno dopo, il sindaco di Trento ordina la chiusura definitiva della Sloy. Ora noi non ci possiamo rendere conto come tutto questo sia stato possibile. Aspettare così tanto, quasi 40 anni. Io ho provato a chiederlo a mio zio e lui ha allargato le braccia. A certe domande. Adesso mio zio sta per diventare nonno. Sì, mio cugino Enzo sta per avere un figlio. È mio nipote. Sto per diventare zio. Io mi chiedo, chissà se fra 30 anni anche mio nipote mi dirà: ma perché continuavate a bruciare il petrolio, a distruggere i boschi, a distruggere le foreste? E io dovrò allargare le braccia a certe domande. C'è un piccolo epilogo. Il PT, colato dai distillatori, perso dai condensatori, rovesciato durante le esplosioni dei reattori, oppure lavato via dalle cisterne. Il PT impregna ancora il terreno su cui sorge la Sloy. 180 tonnellate. Sotto il terreno è poroso per circa 20 metri. Poi c'è un finissimo strato di argilla impermeabile e sotto passa la falda acquifera che alimenta l'Adige. 180 tonnellate sono sufficienti per avvelenare l'Adige, tutta la valle dell'Adige, giù fino all'Adriatico, fino alle petroliere che si puliscono davanti al Lido di Venezia.